Non so se riuscite a comprendere lo spirito, le ragioni della mia soluzione finale. Se riuscite a cogliere l'imbroglio intellettuale in cui caddero colpevolmente Sandro Penna e un esercito di intellettuali che non hanno mai eseguito lavori manuali nell'unità di tempo imposta da un processo produttivo standardizzato. Non hanno mai pranzato con esseri umani che invidiano concorrenti di telequizze puttane nazionali, che concentrano ogni sforzo mentale nella gestione di figli, animali domestici, matrimoni, funerali, natività, viaggi low cost a Sharm el Sheikh, gastroenteriti in corso, interventi chirurgici nella zona vaginale. Sembra ignorino il senso della vergogna e della riservatezza. Parlano troppo, senza il filtro della decenza. Quando la Franceschi si congedò dalla fabbrica per operarsi di emorroidi, nei giorni precedenti rese partecipi tutti del malanno, entrando nei minimi dettagli dei sintomi e del rimedio chirurgico. L'ultimo giorno fu tutto un logico germogliare di auguri e battute riferite alla pratica del sesso anale passivo. Io parlo poco, cerco di parlare poco, ed è sempre troppo. Ambivo al silenzio assoluto, al distacco, al congedo da questa umanità umida. Questi esseri sono incapaci di rimanere soli con se stessi, sono spugne emotive che non conoscono il pudore. Dai tavoli dei dirigenti niente di buono, niente di meglio. Anche loro parlano di liste nozze, calcio, Formula 1, aerofagia, stitichezza, case al mare. La politica è sfiorata, ci si limita a una indignazione fatalista e indefinita, come gli operai. È questa l'unica rivoluzione praticabile, l'unica compiuta. Una democrazia alla demenza, un livellamento al basso angosciante. Nel 1989, per ragioni piuttosto casuali e senza merito alcuno, entrai nelle fila di un ente di nuova creazione. Un ponte sul futuro, assicurazione e controllo qualità. Non sapevo leggere un disegno tecnico e, per fortuna, stavano entrando nell'uso comune i calibri digitali, gli unici che uno come me avrebbe saputo leggere. Era stato un mio compagno di banco delle elementari a fare il mio nome. Mi scelse incautamente, dall'età di 9 anni non eravamo più entrati in contatto. Considerato che ero un mediocre operaio di produzione, Ferri agevolò la mia promozione. Grembiule bianco, maglia polo con il logo dell'azienda. Sembravo un giovane ricercatore. Si trattava di eseguire controlli estetici e funzionali su componenti di fornitura esterna. 6 pezzi per ogni lotto. Se non verificavo anomalie, scrivevo ok con laudo. Poi apponevo firma e data sul foglio di accettazione, in triplice copia. Archeologia industriale, carta carbone, timbri, nessuna registrazione digitale. Se trovavo non conformità rilevanti, contattavo il fornitore e attivavo le procedure del reso con scarto. Conservo alcune polaroid di quei tempi. Le troverete sempre nell'armadietto. Eravamo commoventi. Segretarie che avrei voluto sposare e i miei colleghi di allora, con più capelli e più innocenza. Alcuni risultano dispersi, ingoiati da dimensioni aziendali parallele. Altri sono rimasti a galla e sono cresciuti professionalmente. Dal mio carretto li vedo passare con la testa piena di problemi qualitativi e metafisica burocratica. Evito ogni contatto. Volto il capo altrove. Come vengono individuati i personaggi da proteggere e da esaltare? Quali le attitudini e le caratteristiche da privilegiare? Come si diventa organo vitale necessario? Le mutazioni sono processi impercettibili che coinvolgono tutta la collettività secondo le proprie funzioni? Oppure telluriche macro decisioni imposte da divinità imprevedibili? Domande a cui non sono in grado di dare risposte certe, verificabili. Troppo basse sono state le mie funzioni. Negli ultimi 5 anni ho bivaccato astioso, lontanissimo dalle caste vicine alla luce della conoscenza. Accovacciato alle macchinette delle merendine, come un mendicante, ho osservato i sacerdoti in processione. Ho cercato di coglierne atteggiamenti e parole. Ho studiato il loro abbigliamento, la gestualità, i loro tic che si fanno riti. Sono luminescenti. La sovraesposizione del loro potere potrebbe giocare a loro sfavore. Ho agito nell'ombra, invisibile. Ho osservato tutto. Ho letto, rapito, le mission affisse ovunque. Sono formulette nauseanti. Nessuno le ha notate, a parte me e i funzionari che le traducono dall'inglese. Io, a volte, le ho recitate a voce alta in presenza di altri mendicanti, per sottolinearne l'aspetto grottesco. Spesso sono rubate a scrittori e travisate dal senso originale. L'eccellenza non è un obiettivo, è un cammino. Nessuno mi ascolta. Attorno continuano a parlare di calcio e figli, o di figli che giocano a calcio. Nessuno mi presta attenzione. Abbiamo procedure che derivano dal fatto di essere parte di una multinazionale che si struttura in divisioni, le quali delegano ai singoli stabilimenti poteri limitati. Non si crea materia, tutto è processo di trasformazione. Eppure l'elite fa una autoctona, potere sedimentato nei secoli, radicato sul territorio. Applica modelli di organizzazione esotici imposti dalla proprietà. Anche questo richiede doti non comuni, ma nessuna punta di genio è richiesta. Se hai vero talento, non accetti ridimensionamenti, non ti accontenti. Se hai talento, detieni un'intelligenza vivace, sei un organismo instabile, fuori controllo, sei scandalosamente intraprendente e propositivo. Cerchi nuovi spazi per esprimerti. Rispondi a tutte le job opening interne e sei pronto a lasciare questa azienda per nuove opportunità. Le proposte in ottica Kaizen, miglioramento continuo, creano disagio. Danno l'input a nuove attività per funzionari il cui unico desiderio è quello di mimetizzarsi e fare crocette sulla parete dell'ufficio fino alla pensione e all'ictus. Ma se il talento arriva a lambire il genio, forse questo posto non era il tuo destino e può ucciderti. Diventi pericoloso anche per i tuoi diretti superiori. E allora tutto si gioca su delicati equilibrismi. Quanto è pianificazione interna? Quanto casualità, ciechi flussi di energia? Ci sono riunioni che non hanno all'ordine del giorno contingenze in cui vengono definite le azioni da compiere in un arco di tempo medio-lungo? Ci sono riunioni in cui non ci si limita ad amministrare la cronaca, ma si lavora per costruire la storia aziendale? Mi piacerebbe avere registrazioni pirata, documenti riservati, confessioni di manager pentiti sull'orlo del suicidio per scrupoli etici. Manco di informazioni. Gioco sulla complottistica paranoica, su fantasmi, su nemici difficili da individuare o che nemici non lo sono affatto. È possibile addomesticare gli eventi? Oppure i dirigenti sono esseri superiori proprio per la loro capacità di reazione a situazioni imprevedibili? Risolvono problemi secondo metodologie standard, problem solving, ad esempio, ma soprattutto grazie a doti naturali. Per i funzionari in ascesa la tranquillità è deleteria, mortifera. I problemi sono opportunità di sviluppo e cambiamento in un'ottica di miglioramento continuo e inarrestabile. È mission della nostra azienda essere riconosciuta dal cliente come il migliore dei fornitori, standard di qualità altissimi. Poche parti di scarto per milione di parti prodotte. Si ambisce alla perfezione. La perfezione non è roba per deboli. Quando ero un tecnico, posto di fronte a emergenze, non riuscivo a mantenere una freddezza tale da consentirmi un'analisi precisa e reazioni adeguate. Non riuscivo a farmi valere, incassavo, inglobavo tossine fino a esplodere e avevo scatti d'ira fuori luogo e fuori tempo. Ero preda di sensi di colpa schiaccianti. Sono un animale isolato, refrattario a ogni senso di appartenenza e coesione. Non ho mai condiviso nulla con i miei ex colleghi di ufficio, atteggiamenti, stati d'animo. Avevo la sindrome della special guest star. Sembravo arrivato nuovo ogni giorno in ufficio. Non mi lasciavo prendere dal vizio dei gesti reiterati, non mi sentivo rafforzato dall'anzianità. Vivevo come un'eterna matricola. Ho approfittato del mio allontanamento dal controllo qualità per togliere il saluto a colleghi tecnici e graduati vari. Li guardo storto o non li guardo affatto. Aumento i ritmi del mio lavoro manuale. Devono sentirsi in colpa. Devono sentire il peso del loro privilegio, della loro immeritata posizione. Loro sanno che io so tutto. So delle loro mollezze borghesi. E devono smettere di prendersi lunghe pause alla macchinetta del caffè con le segretarie dell'ufficio estero e di altri enti adamantini. Sono arrivato a cronometrargli una pausa caffè di 16 minuti e 47 secondi, considerando solo il tragitto dalla riga blu del bordo dell'area fino alla mia postazione di lavoro, che è ben lontana dal loro ufficio. E voi pensate davvero che costoro abbiano un'etica tale da provare un'oncia di vergogna? Sembrano vivere questo luogo come fosse un villaggio a tutti gli effetti. State pensando che la scelta di silurare uno come me era fin troppo naturale? Hanno individuato l'esemplare fuori dal branco e hanno sparato. Lo considerate inevitabile, un film noioso che va verso un finale scontato. Riconosco che non possedevo nessuna competenza tecnica, nessun talento, però certe sere a casa studiavo e mi portavo documenti da correggere, pagine di dati da inserire nei file Excel e non ridete di questo, non fatelo. Dovevo crederci, appunto, perché non avevo doti naturali. Mi applicavo con dedizione. Erano anni di buoni propositi, ero puro come una vergine. Partecipavo a corsi tenuti da consulenti angelici. Certo, non era facile per nessuno applicare i dettami biblici della New Age economica alle rogne della realtà quotidiana. I consulenti americani arrivarono in elicottero sul piazzale antistante l'entrata. Parlavano l'italiano meglio di noi. Sembravano usciti da una pubblicità dei Hugo Boss. Entità celesti che non mangiavano, non sudavano e non scambiavano parole con i partecipanti del team di aggregazione dirigenti. L'elite che avrebbe gestito la mutazione aziendale. Gli angeli interagivano solo nel corso delle lezioni. Gli interventi dei vecchi scolari erano sempre della stessa natura. Come far coincidere fatti concreti a regole teoriche? Lo spirito con la misera carne. Le argomentazioni degli angeli scivolavano leggere e robuste al tempo stesso. Vantavano esperienze sul campo, facevano riferimento ad aneddoti di lavoro, dimostrando che qualunque anomalia di qualità o di processo poteva essere gestita secondo poche linee standard. Anomalie e non conformità. Cellule impazzite da trattare come il cancro. Prevenzione. Lavorare sullo sviluppo fornitori e sulle linee produttive interne. Formazione del personale, responsabilizzazione anche a meglio livelli, anche al mio livello. Stupendo, non chiedevo di meglio, anche a bassi livelli, coinvolgere gli operai nell'apertura di problem solving. I dirigenti devono staccarsi dagli schermi del PC, allontanarsi dalle aree condizionate, devono presidiare e monitorare le linee. Devono aggredire la cellula malata della non conformità all'insorgere. Devono aprire i problem solving coordinando le attività delle varie figure secondo responsabilità e competenze. Alle lezioni legate ad aspetti della gestione aziendale seguiva un secondo step di attività in apparenza molto gaie e ricreative. I dirigenti venivano accorpati in squadre disomogenee. Sembrava avessero scelto appositamente persone che non avevano mai avuto contatti professionali diretti. Si sondavano capacità relazionali, l'attitudine a risolvere piccoli problemi nel minor tempo possibile. Si trattava di fare emergere i leader naturali. Le prove erano in apparenza ludiche, i compiti appena assegnati venivano commentati con ilarità, poi via via che i giochini si svolgevano evidenziavano difficoltà inattese e a tratti umilianti. I consulenti erano poco inclini a sottolineare i dati ridicoli. Accennavano sorrisi che si smorzavano in pochi secondi per lasciare posto a una severità scioccante. Dopo poche decine di minuti e qualche prova, a tutti era chiaro che c'era poco da scherzare. I partecipanti che non riuscivano a spogliarsi della propria identità precorso erano fatti oggetto di scherno. Bisognava rimettersi in gioco, dimenticare le mansioni e il potere consolidato, spogliarsi di buona parte delle sovrastrutture culturali. Per questo era necessario regredire a bambino. Poi bambino cattivo, animale, animale feroce, animale che lotta per la sopravvivenza e che si attacca alla giugulare del nemico. La fase fanciullesca era quella più insidiosa. Rigurgitavano improvvisi traumi seppelliti in qualche zona del cervello. Lasciare la stanza in lacrime era segno di resa incondizionata, un fallimento. Questo fece la Rebecchi dell'ente ricerca e sviluppo. Di lei rimane un foglio affisso in bacheca, foto e curriculum maturato in azienda e gli auguri per le attività future, da svolgere in altre realtà lavorative. La Rebecchi era nata il 23 maggio 1964, segno zodiacale Gemelli. Il mensile Astra così recitava in quei giorni. In condizioni normali riuscirai simpatica alle persone care, ma dovrai stare attenta alle tue reazioni davanti a situazioni inaspettate. Dovrai dominare la tua personalità. Non dovrei sottovalutare questo tipo di pubblicazioni. Rebecchi a parte, donna già gravemente offesa di nervi, nemmeno gli angeli del demonio, arrivati dagli State, mutarono l'anima della nostra azienda. In fondo erano spettacoli pirotecnici per dare un'illusione di innovazione e di crescita culturale, un atto dovuto e menzognero. Ora voi direte che anch'io, nel mio piccolo, ho goduto della cappa di isolamento protettivo, che tutti noi, cuccioli nati ciechi, abbiamo avuto i nostri bei vantaggi. Fuori dal bozzolo non saremmo sopravvissuti a una rigorosa gestione delle risorse umane. Abbiamo beneficiato delle lobby misteriosi e dell'agire del sindacato centrale. E non posso darvi torto. Questa considerazione mi fa montare una rabbia ancora più furiosa, perché è rivolta verso la mia persona. Vorrei che le 12:47 di domani arrivassero in fretta.